è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui alle 18.35, 800 24 0024, un numero per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Iniziamo come al solito i telegiornali TG2. Berlusconi in una nota interviene sulle inchieste che hanno coinvolto esponenti del PDL e dice no al clima giacobino e giustizialista, serve governabilità. L'Ecofin ha valutato positivamente la manovra italiana per riportare entro il 2012 sotto il 3% il rapporto deficit-PIL, lo ha detto il ministro dell'economia Tremonti. Maxi operazione contro l'Andrangheta, in carcere oltre 300 persone, tra loro anche il boss Pedisano, colpite le principali famiglie calabresi infiltrate al nord. Una maratona artistica di 24 ore per dipingere con i graffiti un enorme pannello in uno splendido chiostro cinquecentesco. Irripetibile occasione per gli street artist a Milano. Bene, avete sentito questa storia di graffiti, magari ne parliamo fra qualche istante, fra poco vi dirò con chi. E intanto i primi titoli di Studio Aperto. Uccide l'ex fidanzata e il suo compagno, poi si spara. Nel Cuneese l'ennesima strage per un amore folle. La ragazza era croata, si era rifatta una vita in Italia. È la nona donna ammazzata in meno di un mese. Verona, una tredicenne costretta a pesarsi davanti ai compagni nell'ora di ginnastica. Un calvario durato 3 anni. Alla fine un messaggio disperato agli amici: mi ammazzo. L'hanno salvata, ma è polemica. Eccoci qui, 18.37, siamo in collegamento con il sindaco di Milano, Letizia Moratti, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Come sta? Tutto bene, grazie. Dove si trova? Un po' caldo, molto caldo. È estate, quindi non ci si può lamentare. Infatti non facciamo i discorsi sul caldo, perché è caldo in estate. Io non sopporto quando vedo in televisione i servizi sul caldo, lo trovo una cosa assurda. Anche lei? Io pure, perché d'estate è normale che faccia caldo, d'inverno è normale che faccia freddo, sembra sempre che sia tutto... Invece una novità, una tragedia. D'accordo con lei. Meno male. Su una cosa almeno partiamo bene, siamo d'accordo. Partiamo su una bene. Cosa. Senta, ma questa storia dei graffiti, no? Io ho letto che un writer molto famoso a Milano, io non lo conoscevo, anche se abito a Milano da 10 anni, forse è una mia colpa mia, si chiama Bross, soprannominato Bross, è stato prosciolto oggi dall'accusa di imbrattamento. Non so che cosa aveva imbrattato. Dopodiché il suo assessore, l'assessore alla cultura, Massimiliano Finanzalflori, vorrebbe farlo lavorare per il comune. Ma è il caso di farlo lavorare per il comune, secondo lei? Allora, no, quelli che hanno delle pendenze con il comune non lavorano con il comune. Noi abbiamo un regolamento molto preciso, distinguiamo in maniera molto chiara tra chi dipinge le strade, chi fa street art ma con dipinti veri, quindi con dipinti che sono artistici, e chi invece, mi scusi, ma imbratta, sporca, quindi non c'è proprio una bella differenza. Cioè, a casa sua lei credo che sia in grado di distinguere. No, per me fosse per me... Ovvero no, ma no, anch'io a casa mia, se c'ho un ragazzo che mi imbratta piuttosto che mi fa un bel dipinto su una parete, vedo la differenza. Nella città non è mica diverso che in casa. Lui ha fatto un graffito sulle mura del carcere di San Vittore. Dopodiché il reato è andato in prescrizione. Poi, ripeto, un suo assessore lo vuole. Però era reato, E dunque lei sta smettendo il suo assessore, Finanzalflori. Sì, ogni tanto mi tocca smentire gli assessori. Non è che mi faccia piacere, ma se devo farlo, lo faccio. Smentisco l'assessore alla cultura. Dunque, Bross non lavorerà per il comune di Milano. No. Bene. Però in compenso lavoreranno tanti altri street artist. Abbiamo 10 siti del comune che quest'estate verranno dipinti da artisti di strada che faranno, io mi auguro e spero, dei bellissimi murales contestualizzati, quindi che ricorderanno il luogo che dipingono, quindi con una... con una contestualizzazione del dipinto, quindi no ma ho capito benissimo. No, un'altra cosa rispetto al fatto che uno così senza senza... Sì, anche perché guardi che costa, questi, tutti questi imbrattamenti, a noi ci costano vi costano un sacco di soldi, immagino. Ci costano, ci sono costati 24 milioni di euro i primi anni, abbiamo pulito 24.000 palazzi. Sì. Ecco, pensi come potrei usare meglio questi per i giovani, per esempio. Vero, vero, per dargli vero. Degli spazi veri dove si possono esibire davvero invece degli artisti veri. Ma infatti, quando ho letto questa notizia, che uno che per carità non è un criminale di guerra, ma pur sempre... No. Ha commesso pur sempre un reato, è andato prescritto, eccetera, lavorava per il comune, o comunque l'assessore lavorava per il comune, ha detto: beh, insomma, mi sembra una cosa. No, c'ha ragione il Corato che sta sulle altre posizioni, vice sindaco. Intanto, sai, i sindaci tocca prendere posizione tra un assessore e un altro. Lei ne ha cambiati anche parecchi. Sempre di poter metterli tutti d'accordo, ma non è sempre così. Com'è che ne ha dovuti cambiare così tanti assessori lei? Succede. Avrei preferito non farlo, ma. È successo. Senta, qui noi alla Zanzara vogliamo che lei proclami in maniera ufficiale la sua ricandidatura a sindaco di Milano nel 2011. Lo faccia in maniera ufficiale, so che l'ha detto anche in un'intervista a Panorama, in altre interviste, più volte si è detta sicura che sarà ricandidata, però insomma, qui vogliamo una cosa, non dico ufficiale perché ci sono i tempi, ancora è presto forse, però insomma, semi ufficiale. Sarò io il candidato del PDL a sindaco di Milano, si può dire? Allora... Sarò io il candidato PDL a sindaco di Milano, va bene così? No, vabbè, però non deve essere una presa in giro. Speriamo sia vero per lei, naturalmente. Senta, ma di questo lei, mi dica la verità, ha parlato con Berlusconi già? Sì. Ha già parlato, cioè Berlusconi le ha dato la garanzia? Non mi chieda troppo, non dobbiamo fare un'intervista su Milano? Anche, fatte, c'è tempo. C'è tempo? Poi fra un po' mi dice che il tempo è scaduto, lo so, io è un trucco, non ho parlato di niente. È un trucco che utilizziamo spesso noi, appunto. Questo però lei mi ha detto che ha parlato con Berlusconi, dunque mi ha dato una notizia. Berlusconi le ha assicurato, e di questo la ringrazio, naturalmente le ha assicurato che lei sarà sindaco di Milano. Dunque non è solamente la Moratti che dice penso che sarò sindaco di Milano. In un colloquio con Berlusconi mi ha garantito questo. È giusto? Un'interpretazione sbagliata? Diciamo che è un'interpretazione che... Estensiva? No, è un'interpretazione che risponde, però risponde a colloqui riservati. Ecco. Beh, certo. Comunque le ha dato questa garanzia, vero? Risponde a colloqui riservati. Beh, già me l'ha detto prima, sì. Ma che... di Milano parliamo o non sì, parliamo? Un attimo. Adesso parliamo un po' del Monopoli, che comunque è come parlare di Milano, perché non è una questione... Una questione secondaria per l'immagine. Non avevate detto che non era serio che il sindaco si occupasse. No, io non l'ho detto. L'ha detto l'opposizione a Milano e l'hanno detto alcuni giornali. Io non ho detto nulla di tutto ciò. Sa com'è andata sul Monopoli? Dipende quanto tempo lei ha perso allora, intorno al Monopoli. Alla 300ª domanda sulle aree Expo, che effettivamente mi aveva un attimo, come dire, stufato, sì. Mi sono permessa di dire ai giornalisti che mi ero occupata anche di altre cose. Per due giorni, lei ha detto, per due giorni. Scusamente, ieri e oggi, sì, perché dovevo cavarmela sì. Su, appunto, le continue domande sulle aree. Dunque, lei ha raccontato una balla ai giornalisti. Lei ha raccontato una balla ai giornalisti, ma questo va benissimo. No, non era una balla. No, per scansare i giornalisti e dire, beh, sì, negli ultimi due giorni ho parlato solo... Era per dire ai giornalisti che mi occupo ogni tanto anche di cose un attimo più leggere. No, ma per me va benissimo, sempre per carità. Sono robe importanti, pesanti, difficili, scontri, conflitti, solo no, per carità, qua. Noi ci danno fastidio le cose pesanti, lo sa benissimo. Appunto. E dunque col Monopoli a che punto siamo? Col Monopoli oggi mi sembra che siamo sempre fuori dai 22, Siamo quasi in classifica. Quasi. Ieri eravamo in classifica, oggi siamo leggermente sotto. Sa qual è il punto, secondo me? Che allora, la questione per gli ascoltatori è questa. Dico, il Monopoli... Non è che stia proprio tutto il giorno lì sul computer. No, però io oggi, anch'io, però oggi un'occhiata l'ho data, più o meno per vedere la classifica. Beh sì, per forza, devo fare l'intervista a lei. Voti allora anche, mi raccomando. Sì, voterò, può darsi, perché io abito a Milano da 10 anni, per cui pur essendo romano. Poi secondo me, tra l'altro, Milano dovrebbe entrare di diritto. Perché questa cosa online? Chiaramente le città piccole e ragione, i cittadini... Adesso chiederò di entrare di diritto. Oh, ecco. Il sindaco Moratti dice basta con queste classifiche online, col fatto che si faccia lì. È giusto che ci sia, perché è un monopoli per però Milano, l'Italia, però Milano, però Milano dovrebbe essere di diritto. È stata la prima che ha importato in Italia il monopoli, è giusto, ci deve entrare di diritto. Però parliamo anche di altre cose, sennò poi ci dicono che stiamo parlando di cose troppo leggere. Come troppo? No, allora, scusi, prima dice che bisogna parlare di cose leggere. Certo, parliamo di quello che vuoi. Allora, dopo il traffico, parliamo di altre cose col sindaco Moratti, che è in collegamento con noi. 800 24 00 24. Benissimo, 18:47, 800 24 00 24. Senta sindaco, però c'è l'attualità, come lei dice, che anche su Milano oggi fa conoscere un'inchiesta molto importante sull''ndrangheta. È emerso che un tentativo, naturalmente deve essere tutto verificato, di mettere le mani sugli appalti dell'Expo. Che ne pensa lei di quello che sta accadendo? Allora, io ringrazio le forze dell'ordine che hanno effettuato un'operazione importantissima per la città di Milano, per darci la serenità di avviare i lavori Expo senza l'ombra o la minaccia dell''ndrangheta. Io avevo chiesto al governo di avere un presidio qua a Milano per vigilare sugli appalti Expo. Il governo aveva corrisposto a questa mia richiesta, quindi c'è un'istituzione, insomma, che è stata realizzata da parte del governo, sì. Una commissione che vigila appunto sugli appalti, e quindi già questo ci dà delle garanzie, delle sicurezze, ma sicuramente questa operazione, che tra l'altro si inquadra in una serie di operazioni importantissime che il governo Berlusconi sta facendo sulla criminalità organizzata, sono davvero tanti i boss. Io non parlo di mafia, parlo di criminalità organizzata, perché poi purtroppo le organizzazioni sono diverse, camorra, 'ndrangheta e mafia. Ecco, ma secondo lei è inevitabile che ci sia un'attenzione da parte dell''ndrangheta, che sappiamo ci sono purtroppo anche certo su avvenimenti di questo tipo, fondi e appalti eccetera, purtroppo certo che l'attenzione c'è, ed è per questo che ho chiesto al governo di avere una commissione che vigilasse sugli appalti, che ci desse la possibilità. È una commissione che tra l'altro è stata istituita con due caratteristiche molto importanti: l'analisi della, non so che fa, la tracciabilità dei flussi, quindi si riesce a capire da dove arrivano i soldi, i fondi, quindi è molto importante per risalire appunto a eventuali fonti criminali. Sì. E il secondo è quello di avere una, si chiama white list, una lista bianca, quindi una lista di imprese che non sono mafiose, ecco, che non fanno parte della criminalità organizzata. Guardi, colgo l'occasione per dire che noi su questo fronte, come Comune di Milano, stiamo lavorando con la Prefettura in maniera molto intensa, e negli ultimi anni sono state sequestrate beni alla mafia a Milano, significativi, oltre 80 immobili che noi abbiamo preso in carico come comune, tra l'altro siamo uno dei primi comuni che ci siamo presi in carico degli immobili sequestrati alla mafia, quindi tra l'altro è un carico anche gravoso, perché ci prendiamo a casa anche ipoteche e altre problematiche ovviamente, però questi immobili poi noi li destiniamo, le faccio, guardi, solo tre esempi di questi 80 immobili. Allora, li abbiamo destinati ai padri separati, che è una delle nuove emergenze della città di Milano, li abbiamo destinati agli anziani che hanno bisogno di residenze protette ma non hanno bisogno di andare in case di cura o centri per anziani, e da ultimo anche a dei giovani volontari, giovani ragazzi che attraverso la musica insegnano ad altri ragazzi a dei percorsi che stanno a metà tra l'educativo e il ricreativo. Ho capito, lei si sente sicura adesso, si sente più sicura dopo questa indagine? Questa indagine sicuramente ha dato un colpo sicuramente molto molto importante alla 'ndrangheta. Dirsi sicuri, guardi, bisogna sempre tenere la guardia alta, molto molto alta. Adesso per l'Expo poi lei deve fare un po' pace con Formigoni sulla questione dei terreni, no? No, ma io non devo far pace con nessuno, non ho mai litigato con nessuno. Beh, litigare in politica è sempre una parola tutta da interpretare, però insomma, ci sono divergenze sulla questione, per esempio, dei terreni come no? Io Non ci sono, la pensate allo stesso modo? Aspetti, no, non ho detto questo. Ah, ecco. Allora, io in questo ambito ho un ruolo di garante da commissario, sì. E quindi da commissario sto cercando di trovare una soluzione che sia condivisa tra regione, provincia e comune, e naturalmente che poi sia anche una soluzione che vada bene anche ai soci di Expo, perché anche se i soci di Expo non si erano dichiarati interessati a impegnarsi sulle aree, pur tuttavia, essendo una questione che riguarda Expo, è giusto che si dia un'informativa, si senta. E quando loro si troverà un compromesso, secondo lei, in tempi brevi? Deve essere trovato in tempi brevi. Entro settimana prossima dobbiamo riuscire ad avere prendere una decisione, ma io penso che se posso dire, noi fino adesso tutte le battaglie sull'Expo le abbiamo vinte, no? Chi? Quindi abbiamo Italia, vinto la candidatura, abbiamo presentato il dossier di registrazione nei tempi reali, dicevano che non avremmo avuto i finanziamenti dal governo, li abbiamo avuti tutti, dicevano che non avremmo avuto i finanziamenti sulle infrastrutture, li abbiamo avuti tutti, quindi... Senta, però è vero sulla storia dei finanziamenti che li avete avuti. Io credo che sia passata però all'opinione pubblica un'immagine un po' diversa. Che è colpa vostra. Può darsi che sia colpa nostra, ma ci è sono colpa stati. Vostra. No, non è solo colpa nostra, perché ci sono stati degli scontri di potere, questo no, non c'è dubbio. Insomma, ci sono state dimissioni da parte di diverse persone in questi due anni. Ma che cos'è che non ha funzionato da questo punto di vista? Più o meno le stesse difficoltà nel partire. Sì, può darsi, però. È normale. Saragozza ha avuto le stesse difficoltà, Shanghai ha avuto le stesse difficoltà, è normale, sono dei progetti talmente importanti. Ma su questo non c'è dubbio, però voglio dire, è vero che per due anni ci sono stati riscontri di potere molto forti, no? Questo qua è stato un danno per Milano e per l'Expo 2015 o no? No, io non li chiamerei scontri di potere, no, non li chiamerei scontri di potere. Io ho avuto l'impressione che fosse così, comunque. Allora, legittimi, però scontri di potere, non c'è dubbio, non dico che non siano legittimi. Allora, però Expo è stata vinta dalla città di Milano. Allora, è chiaro che fino al momento in cui c'era un'attenzione verso la vittoria, forse non tutti poi ci credevano, e quindi insomma si lasciava andare avanti chi ci credeva, chi ovviamente si doveva impegnare di più perché era normale, no? Essendo la città di Milano. Una volta vinto è altrettanto normale che, siccome il progetto non è un progetto di Milano ma è un progetto nazionale, si debbano trovare degli equilibri diversi. Appunto, io di questi scontri però non li possiamo chiamare scontri di potere, sono equilibri diversi che sono non solo legittimi, sono necessari, perché il progetto non è un progetto milanese, no, ma è un progetto nazionale. Infatti di scontri di potere ho parlato io e sono convinto che sono stati scontri di potere legittimi, che però per due anni hanno un po' frenato tutta la questione. Senta, volevo chiedere un'altra cosa. No, ascolti, non l'hanno frenata. Beh, un po' sì. Insomma, no, allora, non l'hanno frenata. Dunque, i finanziamenti dal governo li abbiamo avuti, le infrastrutture le stiamo realizzando, le metropolitane a Milano le stiamo realizzando. Sì, però se arriviamo alla scadenza adesso perché bisogna, su questa storia dei treni arriviamo praticamente a 15 giorni un motivo ci sarà, si potevano prendere decisioni anche prima, no? No, allora la scadenza del BIE è a ottobre, sì. A fine ottobre, quindi siamo ancora nei tempi. No, quello sì, non dico che i tempi non sono stati rispettati, dico che alcune decisioni potevano essere prese prima, però io voglio chiedere un'altra cosa perché abbiamo poco tempo. Ed no, è questa. Però le decisioni che noi dovevamo prendere le abbiamo prese tutte a tempo, noi presentare il dossier di candidatura, l'abbiamo presentato, No, questo non lo mettevo in dubbio, dico semplicemente che magari... Che siete voi che mi fate credere delle robe che non sono... Senta, lei un vice sindaco della Lega, lo accetterebbe, cioè sarebbe un problema per lei? No. Un ticket con la Lega, lo farebbe? Con Salvini magari, vice sindaco di Milano, lo farebbe allora, o no? Io lavoro benissimo con tutti i miei alleati e quindi questa poi sarà una materia da vedere con i leader del partito, non certamente una materia che posso vedere io da sola. Però insomma, per lei non sarebbe un problema? Beh, io normalmente cerco di lavorare con tutti, quindi non... Però certo, Moratti Salvini sarebbe una coppia eccezionale. Le piacerebbe? A me sì, non so perché. No, adesso non faccio dichiarazioni di voto. Beh, oddio, insomma, adesso è come il diavolo e l'acqua santa. No, ma perché? tanto bisognerebbe capire chi è il diavolo e chi è l'acqua santa. Ma dal punto di vista non negativo, però due caratteri completamente diversi, no? Magari i ticket si fanno anche per questo. Anzi, magari sì. Appunto, ci si completa, no? Dunque? Dunque, lanci io lavorerò questa... con chi sarà vice sindaco. Intanto io ho un ottimo vice sindaco adesso, ecco, cominciamo a dire questo, che io ho un vice sindaco che veramente devo ringraziare dalla mattina alla sera. Va bene. Grazie, buona serata. Grazie. 800 24 0024. Bene, siamo qui, 19:17, 800 24 0024, TG3. L'opposizione annuncia sfiducia a Cosentino. Bocchino: valuteremo. Berlusconi: chi la vota è fuori dal partito, basta giustizialismo. Ultime modifiche alle intercettazioni dal PDL della Buongiorno, PD e IDV. La sostanza non cambia, critica il testo da un esperto ONU. 330 arresti dalla Calabria alla Lombardia, scoperte infiltrazioni nelle imprese, nella politica e negli appalti. Arrestato anche il capo dei capi. Emendamento su pensioni non era un refuso, dice Tremonti. Via libera di Bruxelles alla manovra, debito record, cresce economia sommersa. Napolitano a Trieste con i presidenti di Croazia e Slovenia, un concerto per superare le incomprensioni e le ferite del passato. Un mercantile libico carico di aiuti pronti a rompere il blocco navale. Ultimatum di Israele: cambiate rotta o vi fermeremo. Appena finito di girare Habemus Papam nella sua arena estiva, Nanni Moretti confessa: per l'uscita di un nuovo film le ansie non finiscono mai. E dall'ansia di Nanni Moretti per l'uscita di un nuovo film andiamo a Sky TG24. Ndrangheta da nord a sud, 300 arresti in tutta Italia, in manette il capo dei capi. Intercettati per mesi i boss del nord, documentati i vertici segreti. PDL: Berlusconi dice basta, clima giustizialista, fuori chi vota sfiducia. Intanto Angelo Balducci ottiene i domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Grandi Appalti. Intercettazioni dagli emendamenti, pene più lievi e maglie meno strette per gli editori. Ma l'ONU chiede che il disegno di legge sia soppresso o rivisto. Frattini si dice sconcertato. Manovra secondo Tremonti non c'è arretramento, anzi è migliorata, disco verde dall'Ecofin. Banca Italia, debito record a maggio, oltre 1.820 miliardi, sale il gettito del fisco. Delitti passionali, l'omicida di Bari arrestato stamani, quello di Cuneo è morto nella notte. Caldo non c'è tregua, l'emergenza continua, allarme AFA in 20 città italiane. Nella segretaria, cia cia cia, che la sappi meccanografa, cia cia cia, nella segretaria, cia cia cia, cia cia cia, con il caccia. Solidito segretaria, confessione. Le confessioni del senatore Lucio Malan, PDL, sulla segretaria, la moglie, e su un altro membro della segreteria, della sua segreteria al Senato, la nipote della moglie. Siccome un gruppo non può avere un numero, come qualunque cosa, lo Stato, un'azienda non può avere un numero infinito di dipendenti, si chiede a coloro che hanno delle segreterie particolari perché rivestono delle cariche di prendere qualcuno dal gruppo. Io tra le varie persone che, tra le quali avrei potuto scegliere, ho scelto mia moglie. Mia nipote non è mia nipote, è nipote di mia moglie, per cui dal punto di vista della legge non è mia parente, sì. Se io morissi lei non erediterebbe niente, insomma. Ed effettivamente è una brillante laureanda, molto brava, molto disponibile. Questa signorina lavora qui perché bisogna prendere delle persone e non è facile trovare delle persone che siano affidabili. Se avessi assunto l'amante avrei fatto meno scalpore. Ma è una questione anche di trasparenza. Se avessi assunto amanti o cose di questo genere, nessuno probabilmente troverebbe interesse. È bizzarro perché in questo caso la trasgressione sta nel vincolo coniugale. Di solito la trasgressione sta invece nell'extra coniugale. Qui invece il coniugale dà una forma di peccato. Siamo una squadra. Malan. È chiaro che se io avessi appunto mia moglie nella mia segreteria, poi uno chiama qua e non c'è mai nessuno, allora avrebbe ragione di lamentarsi, perché potrebbe venire sospetto che uno piazza lì di nome la moglie e di fatto la moglie si fa i fatti suoi, fa altre cose. Invece noi primeggiamo, dico noi perché siamo una squadra, noi primeggiamo per quelli che rispondono di più alle mail, rispondiamo sempre al telefono. E poi un paragone un po' azzardato, Kennedy. John Kennedy, che al quale io non mi sogno di paragonarmi, nominò non nella segreteria particolare, ma ministro della giustizia suo fratello di anni 35. Vuol dire che in tutti gli Stati Uniti non ci fosse uno più bravo che si intendesse di giustizia più del suo 35enne fratello, che si era occupato soprattutto delle sue campagne elettorali? I Malan come i Kennedy. Voi giornalisti avete tutta questa attenzione nei confronti della segretaria, cioè mia moglie, di sua nipote, perché sono delle belle ragazze. Noi veramente non lo sapevamo, comunque. Io sono in Parlamento oramai, la prima volta sono stato in Parlamento 16 anni fa, ho avuto parecchi collaboratori. Vedo che però che la prima volta che la mia segreteria ha questa fama, questa grande fama, forse anche perché entrambe le persone di cui parliamo sono delle belle ragazze. Bene, chiuso con Malan, andiamo a un altro protagonista, Walter Veltroni, che insiste nella sua ricerca della verità sulle stragi mafiose. Oggi se ne esce, anzi ieri alla festa dell'Unità, con una cosa nuova e devo dire abbastanza incredibile. La mafia, sentite questa e lo sentirete fra poco dalle parole di Veltroni, la mafia nel 93 cercava di stabilizzare il quadro politico e ha impedito, la mafia e non Berlusconi, o forse Berlusconi è stato favorito da, ma questo non lo dice Veltroni, la mafia ha impedito ai progressisti di guidare il paese, come era giusto che fosse. Sentite. La mafia aveva bisogno, e qualcuno ha utilizzato la mafia per creare una nuova stabilizzazione e per evitare che delle forze democratiche e progressiste potessero governare questo paese, come era razionale che succedesse dopo la crisi del 92. E poi il sospetto. Stragi nel 93 e poi niente bombe nel 94. Non faccio nessuna operazione di forzatura propagandistica, sto ai fatti. I fatti sono che quelle stragi sono cominciate nel 93, mentre c'era il governo Ciampi, e sono finite all'inizio del 94, quando si stava aprendo un'altra stagione politica. Questo Veltroni, ex segretario del Partito Democratico. La Vespa, anzi la cena a casa di Bruno Vespa. Beh, insomma, l'altra sera c'erano ospiti importanti, come sapete ormai, da Pier Ferdinando Casini a Berlusconi, Cardinal Bertone, Draghi, il governatore della Banca d'Italia e altri commensali, ripeto, importanti a casa Vespa. Devo dirvi la verità, la penso non al 100%, però in questo caso al 90%, diciamo, come Travaglio. Non a proposito di Vespa Mezzano, però il fatto che Vespa inviti tutte queste persone non è proprio da giornalista invitare a cena i potenti. Giornalista, insomma, si fa per dire, non credo che se uno fa il giornalista gli può mai venire in mente di invitare il segretario di Stato Vaticano, il Presidente del Consiglio, il Governatore della Banca d'Italia, il più importante assicuratore, ex banchiere come Geronzi, e due politici che un tempo si amavano, poi sono entrati un po' in fredda, adesso bisogna far riscoccare la scintilla. Credo che questo sia un compito da mezzani più che da giornalisti. L'idea che un giornalista debba propiziare un cambio di maggioranza, puntellare un governo che sta traballando, sostituendo Casini, Confini, non solo è una roba da vecchia Repubblica, ma almeno nella vecchia Repubblica queste cose, a parte che le faceva la P2 queste cose, ma poi funzionavano, nel senso che il giorno dopo il Casini di turno entrava nella maggioranza e il Fini di turno usciva. Questi in realtà, lo diceva giustamente anche Giannino, sono dei tentativi abbastanza patetici. Bene, 19:27, andiamo a sentire Gianluca da Torino. Buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Io volevo aggiungere una cosa sulla questione di Malan e della sua segreteria particolare. La cosa che più mi colpisce quando ascolto queste notizie, vabbè, diciamo che è chiaro il fatto che secondo me la cosa non danno nada generale, però io quando ascolto queste notizie mi chiedo, ma quanto vale un senatore che mette in pericolo il suo lavoro a causa di queste polemiche che naturalmente egli può pensare che possono capitargli fra le mani? Per mettere la moglie nella sua segreteria personale. Cioè, io mi chiedo, un senatore avrà la possibilità, visto che queste persone sono sempre tanto con curriculum tanto lunghi e importanti, trovare una sistemazione, un lavoro in qualche altro posto che non sia proprio la segreteria personale? È quello che mi chiedo anch'io. Gianluca, la ringrazio di questo piccolo graffio sulla questione Malan. Andiamo a Roma da Fabio. Buonasera Cruciani. Dica velocemente Fabio, perché devo dare la velocemente borsa. Io volevo soltanto evidenziare un aspetto, cioè quello che non è stato detto fino adesso è l'aspetto fiduciario. Io per esempio ho mia moglie che collabora con me e di lei mi fido molto, quindi se dovessi darle un posto di responsabilità glielo darei proprio per un aspetto. Ho capito, ma lei non lavora al Parlamento però? Non lavora al Parlamento, però non è detto. Avrà una sua azienda proprio... immagino. Sì, avrò una mia azienda, lei non è neanche retribuita perché facciamo un gruppo familiare. Questo però peggio. Quello che dico, comunque l'avrei fatta comunque lavorare anche con me se avessi avuto possibilità di lavorare in Parlamento. Ma cioè, secondo lei non è uno scandalo? Non è uno scandalo secondo lei? Secondo me non è uno scandalo perché e la nipote? Ci sono posti e la nipote? È sempre in ambito familiare, cioè io mi fiderei più di persone familiari piuttosto che di persone che vado a prendere all'ultimo momento. Sì, però lei sa che è un concetto un po' azzardato. Beh, insomma, sì, perché con questa idea, allora, insomma, todos caballeros, imbarchiamo tutti, parenti, amici, perché ci fidiamo più di loro, insomma, qualche paletto ci deve pure essere. Allora, questa mattina da Omnibus, Andrea Orlando, Partito Democratico, un po' di teatrino della politica, contro Straquadanio. Sentite. Non nessuna... mi puoi dare per lezioni favore, quando stai diciamo in ordine di rispondere alle cose che ti dico, Orlando. Non parlare d'altro come no, hai fatto da stamattina. Allora, Straquadagno, rispondimi delle cose che ti ho detto. Straquadagno, rispondimi delle cose che ti ho detto. Allora, per favore, già risposto, per favore. Io ho detto, da te non accetto morale. Io non ti sto facendo nessuna morale. Io non ti sto facendo... Peggio di noi. Siete un partito di affaristi, peggio di noi. Straquadagno, PDL, Orlando, Partito Democratico. Beccati anche con i trans, sentite. Cercare di favorire una candidatura di un esponente politico invece che di un altro alla presidenza di una regione non credo che si possa essere considerato un reato. Dicendo se che va trans. Se è tal... Allora. È stato detto? A trans, scusami, non mi costringe a dire che solo chi è stato beccato ad andare a trans. E ancora i due si beccano. Solo contro tutti, vorrei contare. Si vede la tua posizione è oggettivamente imbarazzante. Io vorrei. No, guarda, non sono affatto imbarazzato. Questo non sono affatto imbarazzato. Si direbbe il contrario. Però la cosa sulla quale. Ma anche i sentimenti vuoi interpretare. E poi abbiamo ancora uno Straquadagno. Bocchino, sleale o illegale? Sentite. Ho letto ieri che Italo Bocchino ha annunciato intercettazioni che verranno alla luce che costringeranno l'onorevole Verdini alle dimissioni, come se lui fosse a conoscenza di atti giudiziari di cui non dovrebbe essere a conoscenza o che dovrebbero essere coperti dal segreto. Allora delle due l'una, o tira a indovinare, come dire, con un bluff, come si fa a carte, e allora in quel caso è un comportamento bassamente sleale, o altrimenti sa cose che non dovrebbe sapere e allora è un comportamento che può avere un tratto anche di carattere illegale. Bene, Daniele da Roma, anzi male, comunque. Daniele, dica. Sì, buonasera. Cruciani, io mi riallaccio ad un discorso un po' più leggero che stava facendo prima con la sindaco Moratti sul Monopoli, no? Sì. Al di là dei vari argomenti che l'Italia quotidianamente ci fornisce proprio per dibattiti e dell'impossibilità, credo ormai, di rimanere, e dell'incapacità soprattutto di rimanere scandalizzati su quello che si sente, perché ormai sembra che tutto è lecito, tutto sia giustificabile. Volevo solo dire, se Milano dovrebbe rientrare per diritto, diciamo, in questo Monopoli del, credo si parlasse del Monopoli del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, credo. No, è una nuova edizione del Monopoli. Sì, no, si parla delle Come lei sa, Daniele, il Monopoli prende spunto a parte due vie da tutte strade di Milano, diciamo, no? Storicamente, adesso vogliono fare una nuova edizione in cui ci saranno i nomi di alcune città, c'è un concorso online, Milano per adesso è fuori perché se ne scelgono 22, dunque c'è un appello perché i milanesi votino affinché Milano resti dentro. No, ma io mi riallaccio perché credo che sia lo spunto del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Vabbè, al di là di questo. No, dicevo perché sono di Teramo, era una polemica così molto sterile, di un argomento molto così scherzoso, dicevo, se Milano dovrebbe rientrare di diritto nel Monopoli, praticamente Teano, che è il mio paese di nascita, dovrebbe praticamente al momento è escluso in questo Monopoli che riguarda il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, quindi Teano che è dello storico incontro, no? come ben si sa. Dicevo, secondo lei, se dipende da una cattiva pubblicità che ci dell'amministrazione comunale. Ma guardi, Daniele, adesso francamente non mi pare un problema. No, infatti né che Milano resti fuori, né che Teano resti fuori dal nuovo Monopoli. La ringrazio. Franco da Monza. Buonasera, Franco. Sì, salve Cruciani. Io volevo parlare delle dichiarazioni di Berlusconi. Quali dichiarazioni? Ah, quelle di oggi, che ha detto che la magistratura è giustizialista, che viene usata per fini politici, che questa P3 lui non la conosce. Insomma, voglio dire, questa P3 lui non la conosce. Verdini, Carboni e Dell'Utri lavoravano per lui per fare pressioni sulla Corte Costituzionale e sulla Corte di Cassazione. Sì, naturalmente queste che lei sta dicendo sono ipotesi no, di reati. Ma sa cos'è, Cruciani? Che lui fa sempre il finto tonto. Cioè corrompe David Mills in atti giudiziari e lui non conosce David Mills. Fatuzza fa delle dichiarazioni che lui c'entrava con le stragi, che aveva delle collusioni con Graviano e lui non conosce questo Fatuzza. Quell'altro sbraccio destro dell'Utri dice che Fatuzza è spazzatura. Vabbè, Franco, adesso ci stiamo un po' allargando. No, non è che stiamo allargando, il problema è che sta prendendo in giro gli italiani. È ora di finire, l'abbiamo capito di che pasta è fatto questo Berlusconi. Ho capito. Qual è il punto? Il problema è che lui fa sempre il finto tonto e prende in giro gli italiani. E questo non va bene, perché gli italiani ormai hanno capito di che pasta è fatto questo signor Berlusconi. Va bene. Ho capito, Franco, grazie. E voi scusi un attimo. Noi giornalisti cosa dovremmo fare? Dovreste fare il cane da guardia della democrazia, dovreste elencargli queste cose, invece fate sempre finta di niente. Noi facciamo finta di niente. Sì, fate finta di niente. Va bene, Franco. Tutto. Nessuno mai te lo contesta. Insomma, non nessuno va bene. Che lo contesta. Nessuno che lo contesta, Berlusconi. Lei è così sicuro che nessuno contesta Berlusconi? Sì, il popolo, qualcuno del popolo. Qualcuno del popolo che significa? Che dovrebbero prendere i forconi? No, mi spieghi, Franco. Non i forconi. Con i forconi, con che cosa? Cioè, allora, quando lui dice che Mangano è un eroe... Voi sì, ma lasci per adesso, non torniamo su questa polemica di Manga un eroe. Torniamo su questa polemica di Manga un eroe, avanti, torniamo su questo. Ci sono tante polemiche, non solo Manga, ci sono un sacco di fatti che io potrei star qui a elencare e andare avanti fino a domani mattina. Vabbè. Quando lui dice che Manga è un eroe, voi giornalisti dovete dire, ma come mai Manga è un eroe? Perché non ha parlato, cosa doveva dire? Sono questi i ragionamenti che voi dovete fare. Va bene, d'accordo, Franco, grazie. La ringrazio, salve, buona trasmissione. Vincenzo da Cremona, buonasera. Buonasera Cruciani, la ringrazio intanto per l'opportunità. Io volevo parlare di un argomento un po' più leggero. Ho sentito questa sera dell'intervento di Marco Travaglio rispetto alla cena a Casa Vespa. Sì. Beh, forse si fa un pochino di dietrologia, nel senso che del resto io credo sia una cena che sia stata organizzata d'accordo con Bertone, con il governatore della Banca d'Italia, eccetera, però non ho trovato che sia stata una cena segreta, ho sentito parlare di P2. No, cioè, che c'entra, scusi, la cena da Vespa con la P2 o la P3? Ma, non c'entra assolutamente nulla, Travaglio, mi scusi. Travaglio credo abbia riferito che... Sì, ma quello magari... era un paradosso, sì? Di Travaglio. Ecco, comunque un paradosso, appunto. Sì, però ma tante non, voleva dire, non voleva dire che... Tra le altre cose, spezzare una lancia a favore di Vespa è la prima volta che mi ci provo. Però mi sembrava, ecco, che in una cena, uno, pubblicizzata adeguatamente, magari non pubblicizzata, però una cena... Uno può invitare chiunque, non era una cena segreta, poi si fanno tanti discorsi su il tipo di, qual è il, tra virgolette, per carità, il tornaconto di Vespa a fare queste cose. No, ma guardi, no, ma certo, ma ognuno ha anche diritto di organizzare la cena con chi vuole, naturalmente, figuriamoci. Io ho trovato le spiegazioni di Vespa oggi in una lettera del Corriere della Sera, devo dire la verità, un po' assurde, perché dice la cena non era pubblicizzata, d'accordo, ma quando uno organizza una cena in cui ci sono personalità di questo tipo non è che c'è bisogno di pubblicizzarla, si pubblicizza da sola la cena, cioè si viene a sapere quasi subito. Numero due, le dice, dice Vespa, la cena a casa mia, siccome conosco Casini da 25 anni eppure con Berlusconi una certa dimestichezza, mi sembrava naturale invitarli per un anniversario che era quello del mio primo articolo scritto sul Tempo tanti anni fa, quando direttore era Gianni Letta, o comunque cronista era Gianni Letta, non ricordo bene. Beh, sì, insomma, però è proprio quello che si contesta, no? Questa eccessiva contiguità. E poi comunque uno non è obbligato per forza a invitare Casini e Berlusconi a cena a casa propria. La ringrazio Vincenzo, uno degli ospiti di questa sera, lo introduciamo in questo modo. Pino Daniele, buonasera. Buonasera, salve. Come sta? Bene, bene, lei? Non c'è male, dove si trova in questo momento? Sono a Brescia. Brescia, perché domani inizia il suo tour. Che domani c'è, sì, questo concerto. 14 luglio, 8 settembre. Da Brescia a Taormina, è così? Sì, esatto, esatto, grazie. Passando per? Passando, insomma, un po' da... Beh, la Campania ci andrà, no? Beh, la Campania, sì. mi ha introdotto con lo scarafone... tipico della campagna. No, vabbè, certo. Senta, ma lo scarafone le provocò un problema con la Lega. Sì. È vero? Vogliamo far risentire, sì, quel passaggio lì? Perché tanto ormai non quell'erano più, No, io ho perso pure la causa, quindi addirittura, alla fine, addirittura. Ho già pagato, quindi non c'è problema. Sentiamo qui, no. sentiamo un attimo. Questa Lega è una vergogna, noi crediamo alla cicogna e corriamo da mamma. Allora, la frase famosa era questa: questa Lega è una vergogna. Quanto ha perso per la causa? Ma chi è che la... No, io ho avuto una causa per un, diciamo, per un disguido, cioè ho detto delle cose un po' non molto belle nei confronti del senatore in una di Bossi. Stampa a Sanremo. E quindi cosa disse su Bossi? Il senatore aveva pure ragione. Si può dire? Si può dire? Però volevo dire una cosa, cioè nel momento in cui io sono nato come diciamo musicista, ma soprattutto anche cantautore, in un momento di denuncia ben preciso, no? Sì. Questa Lega è una vergogna, è riferito non solo alla Lega Nord, ma era riferito anche alla Lega del Sud, cioè era il momento in cui si venivano a formare questi partiti legati a delle ideologie un po' localistiche, troppo, diciamo, un po' troppo pesanti. Quindi era questo. Beh, però tutti quanti hanno capito all'epoca questa Lega una vergogna, rivolta, sì, soprattutto alla Lega Nord. Sì, però se lei si ricorda bene, c'era anche il momento si ricorda a Taranto, c'era quel movimento, cioè ci fu la Lega del Sud in contrapposizione, cioè era proprio come se fosse, sì, una guerra, sì, di successione tra Nord e Sud. Ed era questo che mi dava molto fastidio, anche perché io vengo da una generazione dove la politica ha avuto un ruolo istituzionale ma anche culturale ben preciso. Lei è stato comunista, Daniele, Pino Daniele? Sì, io sono stato anche attivista di sinistra. E ho fatto anche, insomma, parecchie cose per il Partito Comunista. Non è che io rinnego il mio passato. No, per carità, assolutamente. No, anzi, devo dire che però a quel tempo per gli artisti i Festival dell'Unità, sì, erano dei momenti importanti per la denuncia, non solo sociale, ma anche come un movimento culturale, cioè venivano fuori una serie di artisti che se no non sarebbero mai venuti fuori. Senta, oggi il mondo della cultura spesso, non solo i cantanti, anche gli scrittori, eccetera, nel mondo della cultura c'è molto anti-berlusconismo, questa è la mia valutazione. Cioè, molti cantanti, molti scrittori fanno appelli, eccetera. Lei pensa che sia una cosa tutta italiana? C'è qualcosa che non va in questo? Io credo che negli ultimi 10-15 anni veramente viene a mancare la speranza politica. Cioè, io, a parte per quanto mi riguarda, è un giudizio personale il mio, non dico, cioè, io dico quello che penso, cioè, io vedo che viene a mancare, almeno per quelli della mia generazione, per come sono cresciuto io, viene a mancare una speranza politica, perché la politica era un punto di riferimento anche per sperare in una vita migliore fatta d'insieme. Cioè, la mia cultura è proprio quella di stare insieme agli altri per cercare di cambiare le cose. Le ideologie sono morte, eccetera, eccetera. E quindi quello che vedo è un'aridità proprio del pensiero politico, anche perché non vedo una grossa capacità di direzione. Ecco, non vedo una direzione. Ecco, ma molti suoi colleghi sono troppo anti-berlusconiani, secondo lei? No, secondo me dà fastidio il fatto che una persona alle istituzioni possa avere un atteggiamento meno serio degli artisti, cioè fare di tutto un palinsesto, ed è questa la cosa che dà fastidio a certi artisti, almeno come me, cioè il fatto di vedere sempre tutto come un grande spettacolo, e questa è una cosa che non ci fa onore, questa è una cosa che ci offende, perché dopo aver lavorato per anni e anni e anni a cercare di cambiare le cose, anche spendendo dei soldi, perché noi ogni volta che lavoravamo nei Festival dell'Unità noi lasciavamo dei soldi al partito, lasciavamo dei soldi per iniziative che riguardavano la scuola per la documentazione contro la droga, i centri di assistenza per i bambini, cioè abbiamo cercato di dare alla musica un indirizzo sociale, e quindi dando alla musica un indirizzo sociale abbiamo cercato con la musica di fare qualcosa, con le canzoni di fare qualcosa. Poi questa speranza ormai si è praticamente andata, in questi anni l'abbiamo vista proprio. Senta, ma lei da, diciamo, non da cantante, come da cittadino, rimprovera qualcosa a Berlusconi? Cosa rimprovera a Berlusconi? Ma io non sono in grado politicamente di dare dei giudizi, perché sennò mi metterei da una parte o mi metterei dall'altra. E cos'è che non le piace di Berlusconi, per esempio? No, non mi piace l'esempio che si dà agli italiani di un atteggiamento un po' saccente, un po' troppo prepotente, una cosa che già abbiamo visto in anni precedenti e poi è finita male. Quindi io ho un po' il timore che gli italiani si abituino a vedere che le istituzioni e quelli che hanno il potere si divertono troppo e non pensano al paese. Ecco, questa è la cosa che mi dispiace, ma anche perché vedere poi le persone oneste che non riescono ad arrivare alla fine del mese e invece i furbacchioni riescono sempre a svoltare il, insomma. Senta Daniele, ma lei però non fa più una canzone politica da un sacco di tempo, No, io praticamente preferisco in questo momento, cioè, come non faccio canzone come politica mai? Da quando sono un po' cresciuto, nel senso che sono nato in un periodo che politicamente, avevo anche 25 anni, 24 anni, venivo insieme ad altri artisti, venivo a denunciare delle cose, dei malesseri che noi giovani vedevamo e vivevamo, insomma, in quel periodo. E quindi abbiamo cercato di cambiare qualcosa, ma c'è stato un momento che è cambiato qualcosa. Per esempio su Napoli, con Bassolino, adesso non è che io non giudico né Bassolino né altri politici, ma abbiamo fatto tantissime cose buone. A lei piaceva Bassolino? Eh? A lei piaceva Bassolino come amministratore a Napoli? Io c'ero, come abbiamo... No, dico, a lei piaceva Bassolino come amministratore a Napoli? Sì, ho fatto... Sì, anche perché era molto attento culturalmente a tante cose. Diciamo che la sinistra si è sempre un po'... come si dice, ha sempre cercato di aiutare la cultura, perché secondo me un paese senza cultura è un paese che non ha pace, è un paese che poi va alla rovina, va al degrado, e infatti stiamo vedendo anche il risultato di certi tagli su quelli che sono i soldi dati alla, sì, allo spettacolo. Senta, le chiedo una cosa, ma è vero che lei vuole cantare il blues col ministro Maroni? Ma siccome ho visto che il ministro Maroni è attento al blues, almeno io cerchiamo di fare qualcosa per la musica. Cioè, e allora cosa vuole fare? Me lo dica. Facciamo, no, un appello così glielo giriamo. Ma se non c'è l'aiuto delle istituzioni per fare un grande festival blues non si può fare. E dunque al ministro Maroni cosa vogliamo dire? Facciamo un appello, poi glielo giriamo. Ma se il ministro Maroni gli piace suonare del blues e vuole organizzare un festival blues, io sono a disposizione. Io parlo di musica, la musica piace a tutti, sia a sinistra che a destra che al centro. Beh, Pino Daniele con Bobo Maroni sarebbe eccezionale dopo i suoi trascorsi con la Lega, no? No, anche con Bobo Craxi, che è un bravo chitarrista. Pure? Sì. Ma come no? Sì. Craxi, Bobo Maroni e Pino Daniele, pensi che trio. Basta che non mi arrestano. E perché la dovrebbero arrestare? No, non lo so, è un momento così difficile, vedo che arrestano tutti, perfino il capo di... Cioè. Senta, ma la Lega, con lei cosa disse a Bossi? No, io purtroppo insomma mi sono lasciato un po' andare dopo aver visto delle vabbè, adesso non si può dire perché come non si può dire? Si può dire, basta che no, non insomma mi sono lasciato un po' andare su delle definizioni poco carine. Tipo? Si può dire una cosa così. Mi fa fare un'altra causa, io no, lo diciamo, quanto ha perso innanzitutto? Quanti soldi ha perso? Avrò perso 40.000 euro. Vabbè, insomma, mica poco. Però mi sono tolto una bella soddisfazione. Questo si può dire, non è sì, nessuna parolaccia. Come no? Lei dice in quel momento mi sono sfogato, non ce la facevo più, mi sono sfogato. Quando è troppo è troppo, no? È quando si vede bruciare la bandiera e poi si sente dire il vulcano dagliela sotto che li ammazza di tutti. Cioè, un attimo mi sono sentito, un attimo pure. Non me lo ricordo, guarda che lo vado a ripescare. Me lo ricordo, non me lo cosa ha detto? C'è stato un attimo delle definizioni un po' pesanti, ma ogni tanto vengono fuori queste definizioni pesanti, adesso non so. Lo prego, me lo ridica. Tanto siamo qui. No, sembra quasi che sia la guerra tra nord e sud. No, per carità. Però che cosa le scappò? Noi dobbiamo lavorare per far sì che l'unità d'Italia sia insomma mantenuta. Ecco, cosa disse Pino Daniele durante quella conferenza stampa contro Bossi. Lui non me lo vuole dire, non me lo vuole ricordare. Ma vabbè, ci furono dei titoli di giornali poco carini. Però non lasciamo stare quella vicenda lì, ormai è andata. Ho capito, è andata però. Guardi, io sono a Brescia, domani devo suonare, non mi faccio fare. Appunto. Faccio dire delle cose. No, io ho tolto quella. Ma oggi la Lega come la vede lei? Rispetto a quando tuonò contro Bossi? No, sono cambiati un po', cioè hanno praticamente aggiustato un po' il tiro. Beh, no? Con gli immigrati, forse con i napoletani, con gli immigrati non troppo. Ogni tanto viene fuori qualche sfondone, però beh, Salvini per esempio, Salvini. Ci sono degli uomini validi che lavorano. Salvini. Il ministro Maroni è uno di quelli, per esempio. Ecco, non lo dica perché domani devo andare a Brescia, però lo dico perché non lo faccio per fare Luciano, per carità. Scherzo. Però voglio dire, Salvini tempo fa, che è un eurodeputato, consigliere comunale della Lega, una persona che ha un certo peso qui a Milano, disse, fu sorpreso in quel video mentre faceva dei cori contro i napoletani, lei non se lo ricorda, no? No, me lo ricordo. Te lo ricorda, no? Me lo ricordo. Ma quelle sono manifestazioni un po' eccessive, che non è nemmeno odio, diventa folklore, perché poi alla fine non voglio pensare che in un paese del genere un partito che sta al governo si permetta di fare una cosa del genere. Ci sono dei personaggi, ma infatti sono gli uomini quelli che contano. E secondo me gli uomini di qualunque partito, se sono validi, sono uomini che poi vengono fuori. Però insomma ci sono sempre queste manifestazioni sia da una parte che dall'altra. Ci sono delle manifestazioni poco carine. Comunque lei dice oggi la Lega è leggermente meglio di quando lei disse quella cosa su Bossi. Dall'inizio hanno fatto un po' di percorso, stanno al governo, hanno preso dei voti. Lei disse, lei non è che disse una cosa grave in realtà, qui ho recuperato le agenzie, Bossi è un uomo di M, insomma non è gravissimo. Lo so, ma com'è che lo disse? Bossi è nome, come me lo ripete? Non si può dire, Giuseppe, lei mi costringe, mi hanno detto che si è messa a cantare Maruzzella in pizzeria, mi fa schifo, ecco, 40.000 euro per questo, 40.000. Ho perso, sì. 40.000 euro. Sì, però poi mi sono ritrovato da solo, c'erano tutti che mi volevano aiutare da una parte e dall'altra, bravo, grande, eccetera, e poi sono rimasto da solo alla fine. ho pagato le mie... Vabbè, tanto per lei, insomma, adesso non voglio dire che per carità, però insomma, sono sempre 40.000 euro, Lo so, ma io cioè, davanti a una cosa del genere sono rimasto un po', adesso è esagerato. Allora, adesso invece appello a Baroni, allora, chiudiamo questa intervista con... ma più che appello, sono anche i giornalisti che scrivono, io ho detto, mi piace, cioè... Se ci fosse attenzione da parte delle istituzioni per la musica, io ne sarei più che felice, o da sinistra o da destra. E va bene, dunque, però al ministro Maroni che vogliamo dire? Cerchiamo di organizzare un bel festival blues. Un bel festival blues, perché non credo che faccia male sia né a quelli. Infatti, lui è andato a fare una cosa di blues con la sua band in Sicilia. Quindi, alla fine, ecco, o da una parte o dall'altra, insomma. La musica appartiene a tutti, la musica è un patrimonio. E dunque lei canterebbe tranquillamente con il ministro Maroni, perché sì, no? Senza problemi, che problemi. Bene, grazie. Grazie, buona serata, lei. Grazie, buona serata. Siamo qui, iniziamo con la 7, l'abbiamo? La 7. Verdini sempre più in bilico, Cosentino a rischio sfiducia, Berlusconi esplode, minaccia di espellere dal PDL i ribelli, parla di clima giacobino e giustizialista. Non torneremo al passato, giura il Premier, che boccia ogni ipotesi di maggioranze diverse dall'attuale. Colpo al cuore dell''Ndrangheta, oltre 300 arresti tra Calabria e Lombardia, regione colonizzata dai boss che volevano mettere le mani sull'Expo di Milano, intrecci con politica e affari. Catturato il Totorina calabrese, è un 80enne. I video degli inquirenti svelano un''Ndrangheta sconosciuta, per la prima volta filmati gli incontri della cupola in Lombardia e Calabria, dove i boss decidono strategie, promozioni e votano i loro nuovi capi. Si ammorbidisce alla Camera la proposta di legge sulle intercettazioni, più tempo per gli ascolti, sanzioni ridotte per gli editori, meno limiti agli investigatori, ma per Raffignana, buongiorno, non è ancora abbastanza. Tremonti incassa l'ok dell'Europa alla manovra, non era un refuso, lo stop alle pensioni con 40 anni di contributi, rivendica, ma intanto abbiamo alzato l'età pensionabile senza un'ora di sciopero. Arriva l'allarme di Banca Italia sul debito pubblico record. Anche il caldo è da record, 40 gradi annunciati per domani, molti soffrono, ma qualcuno fa affari d'oro. E andiamo a sentire TG5. Berlusconi, il clima giacobino e giustizialista nel quale alcuni stanno cercando di far ripiombare il nostro paese non è certo d'aiuto. In questa fase di uscita dalla crisi servono scelte precise e piena governabilità. Operazione senza precedenti contro l''Ndrangheta, smantellata la cupola del Nord, 300 arresti tra cui il capo supremo Domenico Pedisano, Maroni puntavano agli appalti dell'Expo 2015. Si erano scritti per 5 mesi su Facebook la donna uccisa a Bari e il suo assassino, catturato oggi. Nelle chat spesso sono in agguato situazioni ad alto rischio. Caldo senza tregua a Roma, Bologna, Genova e Bolzano, massima allerta della protezione civile, il picco venerdì. SOS dai parchi africani, negli ultimi 40 anni dimezzata la popolazione di leoni e grandi mammiferi. Superenalotto attesa per i numeri del 6 con un jackpot che ormai sfiora i 100 milioni di euro. Va bene, Alberto ci chiama da Palermo, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, io volevo solamente dire, ho sentito prima l'intervento tra lei e la Moratti per quanto riguarda il writer Bros. A parte il fatto che comunque non si tratta di uno che fa i disegni sui muri, ma è comunque una persona, un artista apprezzato, anche fatto anche tantissime gallerie, quindi ci sono state anche mostre. E poi vorrei capire una cosa, io sono un trentenne che lavora, quello che non capisco, quando si parla di trentenni, quindi di ragazzi giovani come me, allora a quel punto è stato prescritto, quindi un prescritto non potrà mai lavorare in no, comune. No, ma io non ho fatto... No, avete detto questo. No, io non ho fatto nessun discorso di questo tipo. Ho detto... La Moratti sì, però. La Moratti sì, vabbè, allora si rivolge... Io lo so, lei è un garantista, infatti l'apprezzo per il suo garantismo. No, ma io ho detto un'altra cosa. Questo ragazzo, non so nemmeno quanti anni abbia, è stato multato e condannato, poi il reato è stato prescritto, perché ha imbrattato un muro di Milano vicino al carcere, vicino a San Vittore. Sì. Lasciamo perdere che cosa sono i writer, se sono artisti oppure no, se è arte oppure no, in alcuni casi sì, in altri no. In alcuni casi sì, in altri no, evidentemente. No, Alberto, non è che tutti quelli che imbrattano il muro sono tutti artisti. Ma lui non è tutti quelli. Lui da Sgarbi è stato considerato il Giotto dei writer, cioè parlando di una persona. Sì, che no, ma assolutamente. Reale. Io dico, da qui a farlo collaborare con il comune, però ce ne passa, insomma, questo è il ragionamento che perché volevo. Perché ha 30 anni? Ma no, perché ha 30 anni, figuriamoci che c'entra. L'età non c'entra nulla. Ma no, perché è stato condannato, eccetera. Semplicemente, no, ma che c'entra la prescrizione? Non me ne frega niente né della prescrizione né della condanna. Non sono queste. Non sono... Allora cos'è? Perché non potrebbe collaborare con il comune? Mi scusi, Alberto, una persona che ha commesso comunque qualcosa di illegale, perché o depenalizziamo l'imbrattamento dei muri, diciamo che si può scrivere sui muri quello che uno. Noi in piena libertà, oppure se c'è il reato e questa persona comunque è stata condannata anche se era stato prescritto, insomma, poi non è che può collaborare col comune. Sì, ma io questo ragionamento dico potrebbe anche essere plausibile nella misura in cui se un trentenne come me fa una scritta sui muri non può collaborare con il comune, se i cinquantenni, i sessantenni che stanno comunque spesso alla dirigenza di istituzioni e via dicendo si macchiano di reati più gravi, sì, però allora non è che facciamo però non facciamo del bene sì, però non facciamo del bene, non facciamo del benaltrismo su una cosa del genere. Non, lei scusi un attimo Alberto, io non ho detto di essere tra l'altro d'accordo con quello che ha detto la Moratti. Ma lei non sembra che però si sia un po' troppo severi magari con noi ragazzi? No, ma infatti non si tratta di essere severi, io non ho detto mica che deve essere decapitato questo qui. Dico semplicemente che io volevo col sindaco Moratti evidenziare una contraddizione, perché sapevo che magari il sindaco sarebbe stato contrario a questa cosa. Un suo assessore ha detto una cosa, il sindaco lo ha smentito dicendo di no. Volevo tirare fuori una piccola notizia da una cosa del genere. Non volevo... Sì, io lo capisco, però non lo so, io vedo non da parte sua, ho visto anche da parte del sindaco Moratti, comunque c'è una sorta di giustizialismo nei confronti magari di noi giovani. Ah, vabbè, il reato, no, ma guardi, in questo caso i giovani. Ma il reato è prescritto, non è che non l'ha fatto, è stato prescritto. Ho capito, ma quanti prescritti abbiamo in Parigi? Sì, dico che non ci devono andare. Ma cavolo, se lo facciamo noi a 30 anni siamo. No, ma guardi, che l'età in questo caso non credo che sia in discussione. Ma lei dice di no, ma no, ma assolutamente. No, ma non c'entra niente l'età. L'età non c'entra nulla. Magari si usano dei criteri più severi quando si tratta di piccole cose, magari invece quando si tratta di cose più importanti come la mafia, la criminalità, eccetera, il sindaco sarebbe stato un po' più prudente, su questo non c'è dubbio. Grazie Alberto. Marcello da Bari. Sì, buonasera Cruciani, la ringrazio per lo spazio. Senta, io volevo tornare su un argomento che è stato trattato ieri sera, se mi consente, e mi riferisco nello specifico al discorso del senatore Maran, no? Sì, quello che ha subito la moglie, ecco, diciamo, nella sua segreteria. Ora, io questo è un altro esempio, no, di uso privatistico della cosa pubblica. Intendo dire questo, se mi consente. Normalmente nel pubblico impiego, quando c'è bisogno di personale per un pubblico ufficio, si indice un concorso e in base ai principi di equità e di trasparenza si selezionano le persone da adibire a quell'ufficio. Ora io mi chiedo, ma questo è solo uno dei tanti privilegi che la nostra classe politica si è assunta nel tempo. Io mi chiedo perché i senatori, gli onorevoli, i parlamentari, eccetera, hanno a disposizione soldi di noi cittadini, cioè soldi dati, pagati con i nostri, diciamo, con la nostra contribuzione, e ne dispongono in esclusiva e soggettiva facoltà, no? Per assumere questo tipo di collaboratori con eccessiva discrezionalità. Io dico, potrebbero in quel caso, come anche in tanti altri, e non vedo quali siano i motivi fondanti per cui questi signori debbono avere questa sorta di facoltà di poter, con i soldi pubblici, torno a ripetere e sottolineo, con i soldi pubblici, ho capito, assumere, cosa voglio dire eclatante, senza principio di equità. Marcello, ci sono degli uffici, come lei sa, anche nella pubblica amministrazione, in cui non si accede solo per concorso, si accede, diciamo, per chiamata diretta, il che non è uno scandalo, naturalmente. Secondo me il limite della parentela deve essere però molto chiaro. Dunque, insomma, in Parlamento, in un'azienda pubblica, non puoi far assumere a tempo indeterminato, figuriamoci, ma nemmeno a tempo determinato, un parente anche lontano. Questo dovrebbe essere un paletto, secondo me, invalicabile. Siamo qui 2012 800 24 0024. Ci sono diversi ascoltatori che mi scrivono: ma come, Dell'Utri resta in Parlamento e poi lei usa parole forti nei confronti di quel writer che a Milano è stato chiamato dall'assessore a collaborare con il comune e invece il sindaco Moratti ha detto di no. Guardate, io ho semplicemente detto qual è la posizione del sindaco Moratti. Stefano da Genova, buonasera. Stefano, mi sente? Sì, buonasera. Dica. Buonasera, buonasera. Io avevo chiamato, non vorrei essere però scortese, per fare una piccola critica al suo ospite, a Pier Daniele, il mio grande idolo. E così, io 47 anni, ascoltavo Pier Daniele da ragazzo, avevo l'album per mia. E noi non ascoltiamo lei però, Valentino da Brindisi, buonasera. Buonasera e grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, dica. Posso? Prego, è qui. Io sento molto poco però. Anche purtroppo. Noi, Claudio da Torino, buonasera. Senta, io premesso che l'apprezzo, volevo solo fare un piccolo appunto sul discorso di Malan. Mi sembra che ci sia una enorme ipocrisia. L'Italia è il paese del familismo amorale, per cui tutti cercano di far assumere parenti, amici, giornalisti, giudici, pubblica amministrazione in generale. Sì, è così. Esatto, quindi questo fatto di criticare in questo modo Malan non fa altro che accentuare un discorso che è nazionale. Se poi pensiamo, scusi, che Claudio, non ha fatto assumere qualcuno, l'ha fatto nominare sua moglie in Parlamento. Sì, adesso che c'entra Fassino con la moglie? No, certo, perché fa parte dello stesso discorso, del familismo amorale. Sì, d'accordo, siamo d'accordo che in Italia esiste ed è gravissimo questo familismo. A destra, a sinistra, in centro. Ma sì, e allora? Che c'è, e allora? No, allora vuol dire che criticare in questo modo semplicemente Malan mi sembra una forma eccessiva. Ma come criticare Malan? Noi l'abbiamo invitato, scusi, Claudio, l'abbiamo invitato qui ieri a spiegarci questa cosa qui. È stato con noi, ci ha spiegato, eravamo gli attesi, lui ha fatto le sue obiezioni, noi le nostre. Io non sto dicendo che Malan ha fatto bene, io sto dicendo che purtroppo un costume nazionale, destra, sinistra, soprattutto al sud, in tutte le branche della pubblica amministrazione in posti molto più delicati che non quello di una segreteria, di un deputato, di un senatore, quello che è, per cui tutta questa critica anche da parte di alcuni ascoltatori mi sembra una forma di ipocrisia enorme, tanto più che gli italiani criticano gli onorevoli che raccomandano, però fanno a gara nel farsi raccomandare, tutto lì. Sì, Claudio, io sono d'accordo con lei. Allora perché non avremmo dovuto fare le critiche a Malan? Mi scusi. No, io non ho detto, no, ho detto che se lei, secondo me, dovrebbe mettere in evidenza che Malan non ha fatto altro che mettere in pratica. Ma guardi che l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, non so se l'ho detto io, l'ha detto Telese, insomma, l'abbiamo detto, cioè che in Italia c'è una pratica eccessiva di un clientelismo familiare, lo chiama familismo amorale. Bene, 2017 800 24 0024, Alessandra da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo semplicemente far presente una cosa, no? Si parla tanto di questo familismo amorale, come diceva prima, però c'è una legge dello Stato che prevede che nessuno possa, per esempio, essere commissario in un concorso in cui partecipa un parente o affine fino al quarto grado. Io per esempio sono professore universitario, sono stata sorteggiata in una commissione, mi sono dimessa perché partecipa mio genero, nonostante mio genero occupi già questa posizione in Inghilterra. Quindi mi sembrerebbe opportuno che chi occupa posizione di comando nel governo si attenga almeno alle leggi dello Stato. E dunque? E quindi per esempio ritengo che il senatore Malan assumere sua moglie come segretaria, che mi sembra comparabile a partecipare a una commissione di selezione, abbia fatto perlomeno qualche cosa molto, forse non strettamente fuori legge, ma molto vicino a Alessandra, adesso, essere offensivo. Io non credo che sia una questione di codice, ecco. Però il codice dello Stato prevede questo. Sì, prevederà anche questo, Alessandra. Ripeto, nel pubblico, anche nel pubblico c'è la chiamata diretta, no? La chiamata diretta, persisto, se io chiamassi direttamente una persona, per esempio se la mia università chiamasse direttamente mio genero, io devo uscire dalla facoltà che chiamo. Certamente, alcuni poi organismi, alcuni enti, eccetera, prevedono che, come alla RAI, per esempio, anche se poi nel tempo sono stati usati altri criteri per entrare alla RAI da parte dei parenti della RAI stessa, per esempio si trattava sulla pensione delle persone, no? Si trattava sulla pensione delle persone e si faceva entrare il figlio, e si fa entrare il figlio, non so se sia ancora in voga questa cosa. Comunque, in ogni caso, evidentemente tra i collaboratori del Parlamento si può scegliere anche la moglie o la nipote. Secondo me non è una questione, non è una questione di legge. Anche l'affermazione che in fondo non è sua nipote perché non è eredita, l'affinità è no, quella è una cosa parentela. Quella è una cosa ridicola, naturalmente. È una cosa assolutamente ridicola. È la nipote della moglie, comunque. Come ho trovato assolutamente ridicolo il paragone con il presidente Kennedy, perché comunque le leggi americane sono diverse. Sì, cioè, no, ma ripeto. Si può pensare, ed è diverso anche la maniera in cui in America uno paga di responsabilità propria, quindi insomma, in scelte di questo genere. Quindi in realtà io trovo che l'atteggiamento sia assolutamente ridicolo. Ecco, sì, no, ma secondo me è sbagliatissimo, ripeto, utilizzare comunque soldi pubblici per darli, certamente, certo, c'è un lavoro dietro. Però adesso la legge, Italia, o non credo che ci sia una violazione di legge, Alessandra, questo volevo fare. Non lo so, però insomma, allora le leggi sono un po' diverse a seconda a chi ci si riferisce, no? Perché mi pare che questo riguardi tutti gli organismi pubblici. Sì, certo, i concorsi, questo forse non è un concorso. Appunto, non è un concorso, c'è un budget che ogni deputato ha, ogni senatore ha, e può essere utilizzato in un certo modo. Ripeto, secondo me è anche buon gusto, oltre che... Sì. Grazie. Buongiorno. Giuliano da Padova, buonasera. Buonasera, Cruciani, buonasera a tutti, grazie per avermi chiamato. Mi rilascio al discorso appena fatto, perché c'è un principio della Costituzione che dice che tutti gli incarichi pubblici devono avvenire per concorso. Non è vero che c'è chiamata diretta del pubblico. Giuliano, abbia pazienza. Hanno inventato mille maniere per aggirare questa cosa. Sì, d'accordo. Secondo lei hanno inventato mille maniere. Qui c'è un budget, adesso non contestiamo anche questo, qui c'è un budget che è a disposizione di un senatore o di un deputato per scegliersi i collaboratori che vuole. Buon gusto vorrebbe che non li scegliesse all'interno della cerchia familiare, allora, punto. Bene, perfetto, viene il motivo della mia telefonata, il buon gusto. Mi pare che nessuno abbia rilevato il fatto che alla famosa cena a casa di Vespa. Pronto? Sì, la sento. Sentivo molto silenzio. Partecipava il numero 2, in termini di gerarchia, di uno Stato estero sovrano, in un ruolo non da spettatore, ma è sembrato di capire un ruolo attivo di convincimento. Ma questo lo dice lei, naturalmente. No, mi è sembrato di capire. Giuliano, mi è sembrato di capire il fatto che il cardinal Bertone, secondo lei abbia avuto un ruolo per esercitare una moral suasion, come si dice. Ma questo lo dice questo? Sì, no, l'ho letto. Non è che tutto quello che si scrive e si legge è vero. Giuliano, allora, abbia pazienza. Era un ospite così casuale. Ma non lo so, i legami tra Vespa e le gerarchie vaticane sono abbastanza noti. Cioè non c'è, no, mi preoccupa. Non è una sorpresa la presenza di Bertone a casa di Vespa. Il fatto che il gerarca di uno Stato estero partecipi in un evento, in una sessione, in un convegno, anche se pur privato, ma quando si parla di personaggi pubblici di questi livelli non è privato, perché si parlava di... Assolutamente, di assolutamente. Non possiamo negare, o lo neghiamo, che il motivo della cena era un tentativo di riavvicinamento fra il presidente Berlusconi e Casini. Ma questo, guardi, Vespa lo nega, dopodiché le cronache... Vespa lo nega, sì, in una lettera oggi su Corriere della Sera dice che non c'era... La cena era stata organizzata per altri motivi, non aveva, secondo lui naturalmente, lo scopo di una riappacificazione tra Berlusconi e Casini. Guardi, Giuliano... Lei parlava di opportunità, questa è una cosa... A proposito di cene, me ne viene in mente un'altra che era avvenuta poco prima che si riunisse la Corte di Cassazione per decidere sulla questione dell'Oda Alfano, con partecipanti, mi pare, un esponente del governo e un deputato esperto di questioni, era l'avvocato Ghedini, mi sembra, esperto di sull'argomento, sul pezzo, come si dice, e non penso che l'argomento poteva essere, che ne so, una questione di battuta di pesca, no? E quindi poi un'altra scena l'abbiamo sentita parlare l'altro giorno, nella quale si progettavano, si organizzavano attività di influenza su magistratura, su corti, su sentenze. Ma quello è un altro discorso. Parliamo di opportunità, tutti parlano... Sì. Di opportunità, chiedevano si deve dimettere, non si deve dimettere l'onorevole sì. Verdini, eccetera. Sì. Aspettiamo il giudizio dei giudici. Allora noi dovremmo sapere dalla magistratura se siamo governati da una classe politica che rispetta un dettato della nostra Costituzione, altro elemento che dimentica. Vabbè, adesso Giuliano, di che stiamo parlando adesso? Non ho più capito, dopo la questione di Vespa, di che Di opportunità politiche, di scelte, perché se sollevato il problema che l'onorevole Verdini deve dimettersi, però possiamo negare che nelle ultime due settimane abbiamo avuto un affollamento di notizie che riguardano questioni ma chi lo nega? Comunicate dagli organi di stampa che si vorrebbero anche un po' tenere più muti fino a che non si è arrivati a giudizi definitivi. Noi dovremmo aspettare fino all'infinito processi che questo governo non vuole celebrare perché si è inventato tutte le regole per non fare celebrare i processi. Mi sembra una contraddizione. Dunque ci basiamo su che cosa? Dovremmo giudicare i politici solo dopo una sentenza definitiva. No, ma secondo lei dopo che cosa bisogna giudicarli allora? Dopo un'intercettazione finita sui giornali? Dopo che cosa si dovrebbero giudicare invece? Sulle basi del loro rendimento, del loro operato. Sì, vabbè, questo siamo d'accordo tutti. Per esempio il governatore Bassolini si doveva rimettere molto Bassolino, prima, subito, Bassolino, dopo, sì. Bassolino, pardon, dopo che aveva fallito sulla questione della... Va bene Giuliano, grazie, infatti, grazie. Ho capito, come li lasci finire? Sono 7-8 minuti che lei è in collegamento. Le dico la mia proposta per la soluzione della crisi economico-politica. Mozione di sfiducia al governo per corruzione, elezioni anticipate, Poi? Divieto dell'onorevole Berlusconi di candidarsi. Bene, Giuliano. Ho capito, bene. Lei voleva dire questa cosa contro Berlusconi, è riuscito a dire questa cosa contro Berlusconi, va benissimo, non è un problema, Giuliano, cioè se ne parla da tanti anni, perché concessionario, no? Com'è la storia? È una storia, secondo lei? No, com'è la storia? È la storia, sto dicendo com'è la storia, me la racconti ancora, finisca, cioè perché concessionario abbiamo sentito che la Banca Mediolanum aprirà gli sportelli dentro gli edifici dell'ACI, giusto? Senta Giuliano, se lei vuole continuare, ma non lo so, non mi interessa, non ci occupiamo di queste cose, Giuliano, chiami qualche altra radio se vuole continuare su questo, va benissimo, cioè, da realista. Capire. Non c'è niente da capire. È chiarissimo. Conflitto di interessi clamoroso in qualunque stato normale, noi non siamo in uno stato normale, questa cosa impedirebbe al Presidente del Consiglio di poter essere azionista contemporaneamente di una... Quando ha finito poi mi fa un cenno, mando la borsa. Ma infatti potrebbe essere finanziaria di che cosa? Potrebbe essere azionista di... Se è azionista della Banca Mediolanum, come azionista, non... Potrebbe essere Presidente del Consiglio e avere un'autorizzazione da parte di una concessionaria come l'ACI di aprire degli sportelli. È evidente, perché entra un beneficio che altri, cioè concorrenti e competitor, non possono trarne. È semplicemente un dato economico, libero mercato, libera concorrenza. Non c'è libera concorrenza in Italia se la capacità di persuasione del mercato di chi detiene il governo è così spinta. Rifletterò su questa cosa dell'ACI e di Mediolanum. Grazie. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei, c'è troppa luce. Carioni, buonasera. Buonasera. Come sta? Molto bene. Ha sentito, sì. Mi avete accolto con una bellissima musica. Ha sentito come l'ho accolta, sì. Ah, direi proprio di sì. Senta, ma mi spieghi questa cosa qua? Io appena l'ho letto, per carità, magari sono poco attento alle cose. Innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera. Ripetiamo un altro buonasera. Però, lei è vero che alla fine dei comizi di Bossi si mette lì a cantare queste canzoni? Per carità, non è mica un delitto, Ma no, ma ci conosciamo da tanti anni con Umberto, con Bossi. Sì. E lui dice, ciao, c'è una cantata, no? Canta, no? Sa che sono intonato e tutto qui, niente di... E dunque si mette a cantare. Leonardo Carioni, presidente della provincia di Como, 58 anni, Lega Nord. E che c'è di male? No, infatti non c'è niente di male. Canta, c'è mica detto canta che ti passa. Quindi magari... Cioè come funziona la cosa? Me la spieghi. Poi mi spiega anche com'è nata. Ma funziona che i comizi, non tutti i comizi, perché chiaramente io sono... Vabbè, insomma, ha anche qualcosa da fare, insomma, lei. Sono commissario qui in provincia di Como, quindi sì. Ai comizi dove riesco ad esserci molte sere, alcune sere mi invita lui nella zona di Varese, di Como, di Milano anche, no? Perché così, perché è nata tanti anni fa questa, al di là del rapporto politico, un'amicizia che insomma poi dopo si sfoga, anche quando ho sentito poi per caso una sera che cantavo, ho detto dai canta una canzone, proprio perché il motivo suo è rappresentare anche, se vuoi, una Lega che non parla tante volte solo di politica e basta, no? Anche perché lei è un po' intonato, o no? Ma credo. Ci faccia sentire qualcosa però. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, e mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. Tutto qua, poi dopo chiaro. Ma come tutto qua? Noi siamo estasiati qui. Che le devo al di là del vetro c'è gente che stava andando via ed è tornata indietro. Ma non è vero. Come non è vero? Guardi, la regista che si chiama Valeria Bernardi è romana come me, peraltro, anche se vivo al nord a Milano da ormai più di 10 anni, siamo rimasti così esterefatti da questa sua performance. Ma poi ne faccio altri pezzi. Tipo? Si è spento il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore, i giorni sono... Non la conosce questa? No, questa no. Che cos'è? O altrimenti quell'altra che fa... La fisarmonica... Stasera suona per noi, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Gianni Morandi, la Gianni fisarmonica di Gianni Morandi, questa l'ho pizzicata, me l'hanno suggerita. E poi, regia, non so, Massimo Ranieri. Per esempio? La mia vita cominciò come l'erba, come un fiore, e mia madre mi baciò come fosse il primo amore. Guardi che Bossi fa benissimo se la recluta per la chiusura dei comizi, eh. Ma lui si diverte, lui è già pressato tutto il giorno come lo siamo pressati tutti, no? Sì, sì. Il lavoro, degli impegni politici, degli impegni chi non ha la politica, ha altri lavori, e quando ci si trova alle feste della Lega è giusto anche qualche barzelletta, qualche cantata, cantiamo insieme il Vapensiero, poi ci buttiamo lì, facciamo le canzoni che saltano fuori, insomma, è un... Senta, momento. Ma è vero che lei canta anche con Rosy Mauro, cioè il duo Leo e Rosy, è vero? Sì, è Rosy, è lei. È brava anche lei. La mia talent scout è lei. Insomma, è brava come lei a cantare oppure no? Lei è più brava perché è una donna, e senza di lei io non potrei essere quello che sono. E addirittura? Sì, perché con lei accanto io riesco a dare il meglio di me stesso. Senta, ma com'è nata la cosa? Ci spieghi un po' l'origine di questa? È nata casualmente, una sera eravamo su a Campioni d'Italia, fra l'altro era proprio i primi periodi del dopo malattia di Bossi, quindi gli avevamo preparato una serata musicale, ma di musica lirica, alla sala congressi all'auditorium di Campioni d'Italia. Poi ci siamo spostati alla sala ristorante, e lì sul palco c'era un cantante che faceva da intrattenitore con delle coriste, no? La voce del cantante era piuttosto flebile, quindi la Rosy, che mi aveva già sentito qualche volta al tavolo, a un certo punto dice: ma dai Leo, vai su tu, va a cantare, questo qui non si sente neanche. E a questo punto il sindaco d'allora di Campioni d'Italia ebbe un sussulto, pom, si alza, va sul palco e dice: stasera io avevo invitato Mina, ma non è venuta, Fausto Leali non è venuto, insomma Gianni Morandi neanche, però state tranquilli, abbiamo stasera presidente Carioni. Io imbarazzatissimo. Però ha attaccato con che cosa? So, sono salito per fare una canzone e sono stato su poi un'ora e mezza sul palco, insomma, poi alla fine c'era. Con chi ha attaccato? La prima canzone qual è stata? Come? La prima canzone qual è stata lì sul palco di Campione d'Italia? A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. Conosci? Beh, come no, certo. Molleggiato, un mito assoluto. Insomma, anche ma per faccio lei un po' di tutto, faccio un po' di Nomadi, di Dick, Equipo 34, come mi vengono. Un po', insomma, la sua generazione, per carità, lei ha 58 anni, è giovane. Gli anni fine 60, inizio 70. Ad agosto a Ponte di Legno, sicuro al 100% la sua presenza, no? Sei su, ci sei? Sei no, io no, io no, io ad agosto. Allora manda su qualcuno, Dice lei, no? Comunque a parte battute scherzose, lo facciamo per stare in festa, lui piace, ci divertiamo un po' tutti, insomma. Ma non c'è qualche volta, magari succede che lei non mi va, come? Adesso alla fine di un comizio magari non le va a lei di mettersi lì, no? C'è qualche volta che lo fa un po' così, c'è, no? C'è questo fatto che uno appare magari come il pagliaccio della corte. Ecco, appunto, no? No. A me non me ne frega niente, guarda. Ma lei fa bene, ma che gliene frega di passare come il pagliaccio dalla corte? Che gliene frega? L'importante è divertirsi. Lei si diverte a cantare. Io canti, Presidente Carino. In maniera onesta con me stesso. E certo. Ci faccia sentire un po' di molleggiato ancora, quello che vuole. Ma dai. Molleggiato, ma dai. Molleggiato. Caro Beat, mi piaci tanto perché oltre alla musica hai portato una nota di colore in questo mondo pieno di peccato. Però, punto, se i ragazzi che non si lavano, quelli che dimenticano Dio, quelli che si tronano fanno parte del tuo mondo, o cambi nome o presto finirai. Tre passi avanti e crolla il mondo, Beat. Una meteora che gira e se ne va. Ragazzo, svegliati, che cosa fai? Ti metti a camminare con uno che ti mette nei guai. E poi secondo il Corriere della Sera, Carioni, il bardo del pop melodico leghista, un po' esagerato, Si sono lasciati andare, sì. Il Corriere della Sera ha scritto il bardo del pop melodico leghista, l'uomo. Ma sì, ma poi lì tu sai benissimo che i giornali poi dopo non c'entrano perfettamente. Anzi, meglio non l'avessero neanche fatto quei giornali, quell'articolo lì. Perché? Bello, no? Perché? E Bossi dice: insomma, bravo come politico, ma è più bravo come cantante. Allora la gente pensa: allora questo qui è lo scemo che è lì a fare il presidente perché è piaciuto a Bossi come cantante, no? No, vabbè, questo. No, vabbè. Questo sicuramente. Ma lei anche in provincia, là, quando fa in giunta, no? Non canta, non si mette io a cantare. Sono uno che abbastanza, sono ottimista per natura, anche se poi i miei punti di basso, no? Come tutti noi. Però credo molto nel lavoro, noi abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto tante cose in provincia di Como. Ma in provincia lei non canta, no? Votato d'Italia, Sì, questo lo sappiamo. Lei non canta là in giunta ogni tanto, no? Ma anche perché no, mi fa sapere, no? Allora ci sono delle spie. Così, ogni tanto. Allora ci sono delle spie. Ogni tanto qualcosa riusciamo a sapere. Allora devo mettere sotto controllo. Presidente, resti un attimo con noi, resti con noi, non se ne va. A meno che, dove sta andando adesso? Ma sono qui che cammino in cortile, guardi, a casa mia. Un attimo solo, sentiamo qualche ascoltatore. Enrico da Milano, Enrico. Buonasera. Senta, però scusi un attimo, Presidente Carioni, ma il fatto che Bossi dice l'unico erede è mio figlio, ma insomma è un po' esagerato. Questi Maroni, questi Castelli, gente che sta lì e dice no, l'erede è già pronto, è mio figlio. Non è un po' esagerato, no? Come no? Ma è l'erede della famiglia Bossi, no? Secondo lei l'erede è Renzo Bossi? No, e lui dice il mio erede. No, vabbè, non dice politicamente, lo dice, non dice solamente il suo erede. Politicamente. Anche lei vede Renzo Bossi come l'erede di Bossi dal punto di vista politico, di Umberto? Ma mi dica la verità. Che dice Bossi, le dice in un contesto generale. È chiaro che l'auspicio in tutti i genitori che il figlio possa ricalcare le orme del papà e possa essere il continuatore fa piacere a tutti. Però c'è un po' di maretta su questo all'interno della Lega, diciamo la verità. Come? C'è un po' di maretta su questo all'interno della Lega, no? Su questo. Ma guardi, io penso che un partito unito oggi è forte come la Lega non c'è. No, questo è vero. Però questa cosa di Renzo Bossi qualche mal di pancia lo provoca, Ma è un ragazzo giovane. Posso dire che sta facendo bene perché io alla sua età assolutamente non sarei stato minimamente alla sua altezza, deve chiaramente imparare. Lavorare tanto e migliorare come in tutti noi. Io, vagabondo. lo sa Presidente Carioni che degli ascoltatori ci hanno chiesto, diversi ascoltatori ci hanno chiesto perché il Presidente Carioni non ci intona questa canzone dei nomi. Questa è difficile. Mi ricorda il mio amico, il mio grande amico Augusto D'Aolio. E chi è? Noi, Augusto D'Aolio era il cantante dei Nomadi che purtroppo è scomparso, quello che ha cantato quella canzone lì adesso. Io sono un po' ignorante in musica. Morì una decina d'anni fa, poverino, in giovane età, e io ebbi la fortuna di incontrarlo perché allora ero sindaco del mio comune a Turate e lo invitammo due volte. Sì. E fu anche l'occasione per creare qui a Turate il Nomadi Fans Club. E le sue canzoni, le canzoni di Augusto toccano il cuore, sono canzoni molto belle. Ce n'è una in particolare che suggerisco come fa? È Salutami le stelle. E dice: salutami le stelle della tua città, è il sole che io porto nel mio cuore, salutami le piazze della tua città, riempile d'amore. Questo è un messaggio, lui sapeva già oramai di essere alla fine della vita per una malattia incurabile, no? Allora, il messaggio ai suoi fan era quello di dire: salutatemi le piazze della vostra città, riempitele d'amore e salutatemi la gente della vostra città e il sole che io porto nel mio cuore, no? Cioè, veramente un bel messaggio d'amore. Signori, questo è il presidente della provincia di Como, Leonardo Carioni. Un po' matto, ma no, abbiamo fatto tante cose. No, ma lascia perdere quello che ha fatto. Non solo musica. No, ma certo, questo non lo mettiamo in dubbio. Resti un attimo, ascoltatori. Enrico da Milano. Buonasera. Dica. Complimenti al presidente Carioni, perché non è facile cantare senza la musica. Infatti è veramente bravo. Non è facile. Ma non io è volevo facile. Dire un'altra cosa. Volevo intervenire sulla storia della del senatore Milan. Di Malan. Ah, di Malan. No, Milan non c'entra niente. Qui forse noi pecchiamo un po' troppo di moralismo o cose del genere, perché in una segreteria particolare non si va per un concorso pubblico, si va perché si viene scelti e si deve essere persone di provata fiducia. Cioè non esiste che un senatore o un ministro prenda il primo che ha vinto un concorso come segretario particolare. No, d'accordo Enrico, quindi su questo siamo d'accordo. Secondo me ci vorrebbe un limite che riguarda i familiari. Questo. Ma possiamo fare tutto, però dal punto di vista del principio non esiste che io che dirigo un'azienda mi prendo come segretaria particolare la prima che passa per la strada. Ma la prima che passa no, ci deve essere un rapporto fiduciario, però ripeto, secondo me forse un paletto che riguarda i familiari ci vorrebbe. Carioni, lei prenderebbe sua moglie a lavorare con lei nella sua segreteria particolare? No, perché mia moglie, mamma mia. Se lo immagina le sue moglie a lavorare con lei. Mia moglie è una santa, è bravissima. E noi abbiamo, questa è stata una scelta di vita mia. Noi siamo sposati giovani, io 27 anni, 26 e mezzo, lei 20, perché abbiamo vissuto insieme e siamo ancora adesso felicemente sposati. Però non si fa, Enrico. Dopo 31 anni, una piccola azienda tessile, abbiamo vissuto per tanti anni insieme. Sul lavoro, sabato e domenica, sempre insieme. Adesso ho mio figlio in ditta e non è mica detto che poi il figlio sia esattamente la persona adatta a continuare il lavoro della famiglia, perché può anche darsi che il lavoro del papà non piaccia. Ed è una fortuna per il genitore che il figlio continui. Però io penso è un po' come il trasmettere le arti e i mestieri, no? Il trasmettere anche in politica? Anche in politica? In politica, per quanto riguarda l'onestà, sì. Però io voglio dire una cosa: l'onestà la trasmetti nel pubblico, in un incarico, quando uno ha un incarico pubblico e ha un budget a disposizione per assumere qualcuno a tempo determinato o a tempo indeterminato, non dovrebbe avere come paletto il fatto che i parenti non si fanno lavorare, o no? Ma guardi, no. Io dico che insomma, paletti sul nepotismo, lei dice. Sì. Ma in questo caso Renzo Bossi si è candidato. No, parlavo di un'altra cosa. Comunque, insomma, parlavo di un'altra cosa. No, il senatore Malan che ha la moglie, la nipote della moglie che lavora nella sua segreteria particolare. Beh, queste si commentano da sole, quelle cose che sono da evitare. Francesca da Milano, buonasera. Buonasera, a dica. Mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia. Sei mia. Senti, no, lo dicevo voce. Perché eventualmente Boss, cioè, visto che ha deciso di nominare il figlio come suo erede politico, non diciamo testamentario del suo patrimonio, sì, quello gli spetta come in chiusura dei suoi comizi, eventualmente, non lo so, ecco, potrebbe essere Francesca, adesso... Non faccio della facile ironia su questo. No, io scusi, ho chiamato dicendo che volevo fare della facile ironia. Non è facile, mi perdoni, Cruciani. Io sono. No, ma lei può fare quello che vuole. Lei può fare quello che vuole. Se posso farlo, mi faccia parlare. E vada. Vado, se non mi interrompe, vado. Allora, no, io non interrompo sono nessuno. Uscita, mi sono fermata a fare. Gasolio, trovo il corriere, vedo che titolo: Bossi nomina su. Voglio dire. Bossi non nomina nessuno, perché non è che qui si tratta di nominare. Ha detto dopo di me c'è già pronto, esatto, è già pronto mio figlio. Parliamo di nepotismo quando addirittura nominiamo, come dire, i nostri politici, cioè uno dice guarda, poi dovrà essere votato da qualcuno sto Renzo Bossi quando sarà. No, non è che c'è la nomina così con la corona che si mette in testa. Come al Parlamento, voglio dire, nominiamo. Poi bisogna essere capaci per guidare un movimento, certo, un partito politico, o no? Dire, diciamoci francamente, parliamo di nepotismo e questi esempi sono alla grande. Io lavoro per un'azienda americana. Beh, un po' su questa ragione, Francesca, però sì, Carioni, anche perché un attimo solo, Francesca, un prego, attimo solo. Prego. Un po' ha ragione, insomma, nepotismo anche nella Lega c'è o no per questa storia della famiglia Bossi? Beh, la Lega è Umberto Bossi. Bossi è la Lega. Adesso per l'amor di Dio, Renzo. Dunque può fare tutto? Bossi. E poi prima di parlare delle persone bisogna conoscerle. Io Renzo lo conosco. Al di là, lo conosco, so che è molto attento, so che si interessa di politica da qualche anno. È stato anche nostro ospite. E devo dire che Buonsangue non mente, io lo vedo molto Buonsangue bene. Non poi mente, dopo, benissimo. Francesca, però mi canti quella canzone di prima, Francesca. Mi si potrà contestare il fatto che è stato il candidato. Che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia. Vedi che bello. Non lo so, l'ho copiata dal responsabile della candidatura. Di che sta parlando? Carioni sta continuando a parlare di Bossi? No, ma non stiamo parlando della candidatura. Lei ha detto Buonsangue, secondo me Buonsangue non mente, questo ci basta. Però mi segua, Francesca è brava o no secondo lei a cantare? Francesca è brava, ho già sentito bella voce. Io non so la canzone, ho sentito le parole. Vada, Francesca, me la ripeta. Non gliene canto un altro. È uno schiaffo all'improvviso, le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. A letto ritornai nel sogno, la sognai. Sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva solo tua, ma di pietra ritornati. Francesca, c'è un pezzo di fisarmonica perché è bellissimo. Non vi mettete, non vi sovrapponete, com'è il pezzo di fisarmonica, Carioni? Fantastico. Bello per chi ama la musica, la sente. Io sono un po' tagliato fuori perché questi pezzi sono un po' vecchiotti e oggi ragazzi però vogliono altre cose, orecchiabili, ricordabili. Ma alla fine dei comizi, quando lei canta, che succede? La gente applaude oppure ogni tanto qualche fischio ci scappa? No? Ma no, ma il problema è che in Lega se una scelta di Bossi non viene applaudita, la Prussa rabbia, no? Lui dice applaudite, mi applaudono per forza. Non è che Kim Il Sung, lei sta dipingendo una situazione da Corea del Nord quasi. Ma sì, per forza. Dunque, come Kim Il Sung? Boss, no, io scherzavo. Scherzava. Francesca, che doveva dire? Mi dica. No, volevo dire che poi sorridevo anche su un altro titolo del Corriere, dove Berlusconi dice: ma non si può mandare in galera uno di 78 anni. Allora facciamo quelli, nominiamo in tutte le cose in cui come dire, c'è qualche rischio di galera, gente che ha compiuto, ha superato una certa età. Si riferiva a Carboni. Cosa che succede in Italia, perché io le dico, ci sono aziende che aprono, mettono come amministratori over ottantenni, dopodiché quando li beccano che vanno... Lo fanno apposta, certo, perché sono consapevoli che in Italia in certe situazioni si salta tutto. Galera, bene Francesca, fantastico. Grazie, perché non ci chiama più spesso? Lei è molto simpatica. Grazie, arrivederci, buonasera. Carioni, come chiudiamo? Con che pezzo chiudiamo? Abbiamo 20 secondi. Presidente della provincia di Como, con che pezzo chi chiudiamo? Chi non lavora non fa l'amore. chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. Penso proprio sia quello. Il problema è che cantando questa canzone uno dice devo trovare il lavoro. Ma grazie. Se il lavoro non c'è. Grazie, buona serata. 20:57, ci sentiamo domani 18:30. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare. La Zanzara.